sono stanco, con la salute. A tutti buonanotte. Cosa c'è? Frenini. Mrs. Rance, fra poco, no, faccia l'incidente, mi l'incidente, non ti ripete, ragazzo, e questo è che lavora, mi compagnisco, mi compagni, e sono i tempi, e sono se mai vedo giù, intende. Perché chi racconti le offese degli ubriachi e capisca che vieni, urla, urla, e urla molto cari. meglio. Dove lo vamo? You offend the Spaniard. Sceriffo, questa sera ora mi risallaccio. Come l'avventuriere mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, Ashby non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Per fine, papagallo, siamo lì. Scusa, che ci sposerà di tutti. Che poi gente, ma di cosa ne sa il suo cielo? Che è costruito al mio paese, ma che faranno la gente? Oh, Titti! Bene, purtroppo ciò, ci sono cicce, non cicce in tristi. Io credo, brutte nuove, su coraggio. E anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, che sono questi mastini? C'è quello che gli ho detto, alla porta si beve il whisky schietto. Intendo, gli aggiusteremo i ricci. Nessuno mai m'amò, son messo in cammino. Attratto sol dal fascino dell'oro, e questo in sole non m'ha ingannato. Giocare il vostro nome. Thank you.